serafi, che magnifica scoperta, Maria Gilberta, Maria Gilberta. Tutto pepe, tutto amor, piena di focoso ardor, che si deve stare allerta, Maria Gilberta, Maria Gibi. Per lei son diventato un cagnolino, mi gira e mi rigira come vuol. Penso sempre notte di quel tipin che mi rapica, magnifica scoperta, Maria Gilberta, Maria Gibi. Dico quanto è bella, sembra una stella, la Maria Luisa, ma l'han detta tanto grossa, grossa, grossa. Ah, se voi vedesse, se la conoscesse, quella che m'ha preso il cuor, è proprio sai più bella da non paragonar. Penso sempre notte di quel tipin che mi rapica, magnifica scoperta, Maria Gilberta, Maria Gilberta. Tutto pepe, tutto amor, piena di poco d'ordor, che si deve stare allerta, Maria Gilberta, Maria Gibi. Per lei son diventato un cagnolino, mi gira e mi rigira come vuol. Penso sempre notte di quel tipin che mi rapica, magnifica scoperta, Maria Gilberta, Maria Gibi. Thank you.